Potete accomodarvi. Come state? Possiamo anche ringraziare il gruppo Lode, Marco, Simona, Christian, Ruben, per questa lode leggera, anzi leggerissima. Lo volevo proprio dire, è da tanto tempo che lo volevo dire. Sono troppo felice di poter parlare con voi oggi e condividere con voi qualcosa che sta molto nel mio cuore, che è anche frutto un po' di un'esperienza di quello che è stato il percorso di vita mio e di mia moglie dell'ultimo anno. Voglio parlarvi di genitorialità. Parliamo ancora di questo tema. Abbiamo avuto dei contributi bellissimi le scorse settimane. L'avete visti? Almeno 2, 3? Tutti? Chi li ha visti tutti? Ma allora bisogna ripassare il link, va bene. La genitorialità non è qualcosa che riguarda solamente l'essere genitori, ma è qualcosa che è un principio biblico e oggi lo andremo a vedere insieme, lo guarderemo, lo analizzeremo e sono certo che il Signore vorrà parlare ai nostri cuori. Come voi immaginate, questo anno è stato un po' particolare per noi perché abbiamo ricevuto 2 bambini in casa, no? Voi sapete che abbiamo adottato 2 bambini, non posso dire i nomi perché purtroppo è ancora registrata la predica. E il mio maggiore, voi dovete sapere che i bambini fanno un sacco di domande, ma tante, a cui veramente ti senti Wikipedia quando devi rispondere, devi sapere tutto, ti fanno un sacco di richieste, anche precisazioni, a cui tu devi cercare di dare un senso. Ma poi entrano nella storia personale, perché ovviamente vogliono sapere di più di te. Una delle domande più strane che ha fatto il mio figlio maggiore a me è stato: papà, ma tu, quando eri giovane, ce li avevi i muscoli? Ora, già il fatto che voi ridete mi offende, perché non avete fiducia nella mia... già questa cosa un po' mi ha offeso, cioè nel senso che io volevo dire che tutti gli esseri umani sono fatti di ossa, di muscoli, di pelle, che non è che ce li hai o non ce li hai, ce li hanno tutti i muscoli, ok? Ma non volevo entrare in questo ambito scientifico, quindi ho preferito insomma dire, senti, facciamo una dimostrazione di forza, ti sfido a giocare a braccio di ferro, ok? Così vediamo se il papà c'ha i muscoli. Indovinate chi ha vinto? Lui, perché i papà perdono sempre a braccio di ferro, giusto? Non so perché i papà perdono sempre a braccio di ferro, ma devono perdere, insomma, è proprio una cosa naturale. Però questo insomma, ci sta introducendo un po' a un percorso di vita come genitori che è stato pieno di sorprese. Voi potete solo immaginare insomma, di quante volte abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo sentiti disorientati, impauriti, soli. E questo non ha costituito per noi una sorpresa, perché quando abbiamo iniziato questo percorso eravamo consapevoli che avremmo dovuto affrontare delle cose che non conoscevamo, che non avevamo neanche idea che avremmo dovuto affrontare. Quindi abbiamo valutato questo come un inizio di qualcosa che sta andando verso una direzione che va oltre noi, perché se dovessimo farlo pesare sulle nostre aspettative o sulle nostre certezze, sarebbe un totale fallimento. Abbiamo fin da subito iniziato a far dipendere tutto questo dal Signore. E voi sapete che, insomma, chi ha più o meno conoscenza di un percorso di adozione, anche di conoscenti, amici, ma anche la cronaca ci parla moltissimo di questo, ce ne parla sempre in negativo, perché poi ci sono sviluppi nell'età adulta dove ci sono dei pesi che devono essere rilasciati, delle guarigioni da ricevere nell'anima. Qualcosa che può portare anche dei brutti risvolti. Abbiamo letto delle storie molto tristi nelle ultime settimane, proprio rispetto a questo tema. Questo coinvolge anche una sfera ancora più ampia, perché magari puoi avere, in caso di un'adozione transrazziale, possono esserci ulteriori problemi. Come si può affrontare tutto questo? Noi abbiamo deciso di abbracciare quello che Dio vuole. Non c'è un altro percorso. non c'è un'altra strada. Noi abbiamo piena fiducia che questo percorso, e mi prendo la responsabilità di dirlo oggi, che non so che cosa succederà da qui a 10 anni o 20, questo percorso avrà successo perché l'adozione è un principio spirituale. E quando trattiamo un principio spirituale, c'è un successo divino, non il nostro. E quindi io volevo un po' condividere questo con voi oggi. Perché un principio spirituale? Innanzitutto, adottare non è solamente includere qualcuno nella tua famiglia, farne parte e dire sei qui da oggi in poi. Non è un innesto, non è qualcosa che tu metti e cresce, ma è qualcosa che ha a che fare con degli aspetti ancora più profondi, ancora più intimi. Adottare qualcuno vuol dire abbracciare un sogno. E questo è il primo principio. Perché abbracciare un sogno? Ho pensato a una storia che probabilmente voi conoscete già, ma forse non avete fatto caso ad alcuni dettagli. Se, per esempio, voi avete, non so, intenzione di sposarvi, sei un ragazzo, un giovane uomo, no? E stai decidendo di mettere su famiglia, e poi all'improvviso arriva la notizia che la tua fidanzata è incinta e che il bambino che aspetta non è tuo. Tu che fai? Magari è pure una madre surrogata, diremmo oggi, no? Sto parlando di Giuseppe, il marito di Maria, il fidanzato in questo caso di Maria. Giuseppe era un uomo molto sano nei suoi principi, si capisce che non voleva mettere in difficoltà la sua fidanzata e decide di licenziarla, dice la Bibbia. Ora non so questo licenziare che cosa vuol dire, però immagino che sia una separazione e non avrebbe permesso, insomma, a Maria di entrare in un problema grave, perché insomma una cosa del genere era punita con la legge mosaica pesantemente. Oggi forse avremmo dei giudizi differenti dal punto di vista etico-morale, però all'epoca, e c'era la legge mosaica, sarebbe stato molto grave. Però Giuseppe, nel momento in cui sta decidendo di separarsi da Maria, Dio parla a Giuseppe in sogno. Questo sogno è un po', ci viene raccontato dalla Bibbia. Se avete letto Matteo, immagino, come abbiate avuto modo di leggere nel piano di lettura che stiamo facendo, il primo capitolo è proprio dedicato a questa storia fantastica, molto dettagliata, perché Matteo 1:20-21 dice: allora, ma mentre aveva queste cose nell'animo, parlo ovviamente di Giuseppe, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora, la questione riguardo a questo sogno poteva rimanere un sogno se Giuseppe non avesse fatto assolutamente niente. Dice, vabbè, un sogno, ok. Non lo ignorò, prima di tutto, ma soprattutto lo abbracciò, lo fece suo. Come fece a farlo suo? Con un'azione. C'è scritto che Giuseppe prese sua moglie e si sposò con lei. Diede un seguito a quello che il Signore gli aveva rivelato. E questo non è scontato, perché non so se magari tu fai un sogno e poi tu decidi di riprendere la tua vita in mano in questo modo e decida di fare questa importante decisione di esporti anche al giudizio di tutti e portare avanti qualcosa che non è neanche tuo, ma qualcosa che appartiene a qualcun altro, perché è un sogno che Dio aveva per l'umanità. Ora, io sono sicuro che Giuseppe non si rendeva conto di quello a cui andava incontro. Non aveva la più pallida idea di quello che stava per succedere, perché da quel momento in poi, quando Gesù nasce, Giuseppe diventa padre adottivo di Gesù. Anzi, la Bibbia da quel momento in poi si riferisce a Giuseppe come padre di Gesù. Forse non abbiamo neanche parlato troppo di un dettaglio fondamentale, perché in questa adozione passano tutti i diritti di Giuseppe a Gesù. La genealogia di Giuseppe passa a Gesù. Se quella promessa che il Messia sarebbe stato il figlio di Dio, certo, ma discendente del trono di Davide, in Giuseppe questa profezia si avvera. Gesù è figlio di Davide perché viene adottato da Giuseppe. E questo ci dice quanto grande è stata la decisione, quasi per il destino dell'intera umanità, di fare questo passo così importante, così coraggioso, e fare questa decisione per proteggere, curare, guidare un bambino che non aveva alcuna difesa in quel momento, perché aveva bisogno di crescere in una strada precisa guidata dal Signore. Quello che vediamo qui è straordinario, perché c'è Giuseppe che non sentiamo mai le sue parole nella Bibbia, sentiamo solo che Dio parla a Giuseppe, e lo fa sempre attraverso i sogni. Ora non so, forse Giuseppe non parlava, non lo so, però Dio parlava a Giuseppe in sogno, e lo fa ancora e ancora. Lo fa quando Erode decide di uccidere tutti i bambini, e Dio parla a Giuseppe in sogno e dice: prendi il bambino e portalo in Egitto. E Giuseppe che fa? Abbraccia ancora un sogno e gli dà un'azione. Prende il bambino e sua moglie e li porta in Egitto. Quando la crisi riguardo Erode finisce, Erode muore, Dio parla ancora a Giuseppe e dice: Giuseppe, prendi tua moglie e tuo figlio e ritorna nel tuo paese. E Giuseppe che fa? Prende sua moglie e suo figlio e li riporta a casa. Guardate che percorso straordinario Giuseppe decide di fare, e decide di farlo lui, non gli è stato imposto da nessuno. Oggi leggiamo una storia, lo mettiamo nel presepe, però in realtà Giuseppe è un uomo straordinario perché ha cambiato il destino dell'umanità nelle sue decisioni. E non solo ha dato un trono a suo figlio, un'eredità a suo figlio, ma ha permesso a lui di diventare il salvatore del mondo. Il fatto che noi siamo qua oggi è perché qualcuno ha fatto una decisione che ha cambiato questo. Non siamo grati a Dio di questo, sì? Amen. Abbracciare un sogno significa fare delle decisioni. Se non dai un'azione ai tuoi sogni, rimangono là, non succederà assolutamente niente. Fai come Giuseppe, adotta. Prendi qualcuno, fai di quel qualcuno il tuo sogno che Dio ha per lui, abbraccia quel sogno, fai in modo che quel destino possa cambiare. Tu non hai idea di quello che può succedere quando tu fai una decisione in questa direzione. Pensiamo a un'altra genitorialità, forse ancora più comune probabilmente a noi, e parlo di Paolo e Timoteo. Questo è creare eredi. Quando noi parliamo di questo, pensiamo a Timoteo, che non lo conosciamo se non da quelle informazioni che la Bibbia ci dà, e sono relative al fatto che lui era uno dei primi figli di credenti, no? La madre e la nonna erano credenti, proprio uno dei figli di credenti, il classico. Ma lui poteva vivere la sua vita tranquillamente, se non quando incontra Paolo e Paolo decide di prenderlo con sé. In questa adozione Paolo dà un destino alla Chiesa futura, non solo a Timoteo, ma alla storia della Chiesa futura. Nel verso di Timoteo, che probabilmente tutti conoscono, c'è una dichiarazione, nel primo Timoteo, capitolo 1, c'è una dichiarazione di Paolo che fa a Timoteo, ed è bellissima perché dice: ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia. Voi pensate che il patrimonio spirituale di Paolo è enorme? Ancora oggi viviamo questa passione di Paolo per la Chiesa, viviamo delle lettere di Paolo che ha scritto alla Chiesa, sono un patrimonio eccezionale. Se abbiamo oggi una dottrina di Chiesa, perché Paolo ha scritto un sacco di lettere, pensate questo patrimonio spirituale che viene passato a Timoteo. Ed è eccezionale perché vuol dire non solo discepolare qualcuno, conosciamo questa parola, no? Insegnare a qualcuno di fare qualcosa, ma in questo caso sta proprio trasferendo la propria autorità spirituale a Timoteo. Infatti c'è un'imposizione di mani, una chiamata, una guida verso quello che Paolo affida a Timoteo. Il destino di ognuno di noi non è vivere per noi stessi. Non possiamo mai e poi mai immaginare che la nostra vita sia autosufficiente spiritualmente parlando, perché abbiamo bisogno di affidare quello che Dio ha dato a noi a qualcun altro. Non può esserci continuità nella Chiesa, questo è un principio di tutta la storia della Chiesa, non ci può essere continuità se tu non crei un'eredità. Devi creare eredi, devi creare persone a cui quello che Dio ti ha dato devi dare, devi trasferirlo, è una tua decisione farlo, altrimenti quello che il Signore ti ha dato, ed è legittimo che il Signore te l'ha dato e te l'ha affidato, finirà con te. Ed è molto triste, abbiamo bisogno di prendere quello che il Signore ha dato, coltivarlo e trasferirlo a qualcun altro. Questo è essere genitori adottivi, anche in questo senso. Pensa a quanti figli hai avuto in tutta la tua vita spirituale. Ora, se tu sei qui, guarda, sono convinto, non lo so, a meno che si è trattato di un miracolo fuori dalla norma, che magari sei capitato perché il Signore ti è apparso sulla via di Damasco e ti ha scaraventato a terra, ma se tu sei qui e fai parte di questa chiesa è perché qualcuno ha pregato per te. Qualcuno ha amato il tuo cammino, qualcuno ha coltivato il tuo cammino con Gesù, ti ha insegnato, ti ha formato. Quanti di questo è successo a qualcuno di noi qui? Sì? È successo quasi a tutti. Perché non è possibile arrivare a conoscere Gesù se qualcuno non ti ha trasmesso Gesù. Questa è la nostra eredità. Questo è il tuo essere genitore, non puoi sfuggire da questo principio. Se sei parte di questa chiesa, di questa famiglia, è perché tu sei figlio e a tua volta diventi genitore. È così importante che continuiamo questo principio, lo coltiviamo, lo portiamo avanti, perché solo così la nostra chiesa avrà un futuro, solo così quello che il Signore ci ha affidato avrà successo. Non è possibile considerare che quello che sta per accadere da qui in poi sarà straordinario se non passiamo i doni, le speranze, i sogni, le speranze di che il Signore ci ha dato riguardo al futuro di questa Chiesa. Non possiamo farlo se non lo diamo a qualcuno. Pensa, se non è già successo nella tua vita, non sentirti giudicato, però è il momento che, ora che tu hai conosciuto Gesù, sei diventato figlio di qualcuno, ma adesso è il tuo turno di essere genitore, devi diventare genitore. Io sono molto orgoglioso di tanti figli che ho avuto in questa chiesa e sono felice che ci siano e stanno servendo il Signore, e non solo in questa chiesa. È la mia eredità, non è qualcosa di cui io mi posso vantare, è la mia eredità, perché ho voluto obbedire a quello che il Signore mi ha dato. Ora mi trovo a farlo in maniera ancora più specifica, in maniera naturale, con dei figli che vivono a casa mia. Ma questo non cambia, perché è il principio della genitorialità che abbiamo in Dio di fare eredi. Un altro e ultimo punto riguardo a l'essere genitori, essere, abbracciare l'adozione, è dare un diritto. Questo è quello che mi piace di più. Quando abbiamo iniziato anche le pratiche, proprio anche burocratiche, riguardo l'adozione dei nostri due bambini, c'era uno scoglio importante, andare a a registrare i loro nomi all'ufficio anagrafe, che è la cosa più normale se uno nasce, ma se sei già nato diventa difficile da qualche altro, se sei nato in un altro posto. Allora andare a fare questo percorso non è stato semplicissimo. Quando noi ci siamo recati, abbiamo parlato con l'ufficiale, non so come si chiama, insomma la persona addetta, responsabile dell'anagrafe del nostro comune, era molto reticente a registrare i loro nomi perché non c'era un documento, non si trovavano delle carte che potessero attestare il percorso di questi bambini e registrarli per la prima volta in un comune italiano. E io cercavo di dire, ma guardi che almeno uno dei due è nato su territorio italiano, quindi di fatto è un cittadino italiano. Ovviamente non ricordavo che lo Ius Soli non è mai stato approvato in Italia, quindi non esiste. Cioè non prendi cittadinanza se tu nasci in Italia. Non è così, non esiste. E allora mi chiedevo, ma cosa succede? Quindi questi bambini, quando avranno la cittadinanza italiana? E lei mi guarda attonita e dice, ma scusami, diventeranno cittadini italiani per il diritto di che si chiama ius sanguinis, per diritto di sangue, quando prenderanno il tuo cognome. Loro avranno tutti i diritti di cittadinanza, tutti i diritti civili dello Stato italiano e quindi anche la cittadinanza italiana solamente nel momento in cui diventano tuoi figli per diritto di sangue. Il diritto di sangue è il più grande principio spirituale che il Signore ci ha dato, perché io sono stato adottato in Cristo per diritto di sangue. Non c'era un altro modo, c'era da pagare un prezzo, c'era da pagare col sangue la mia adozione. E quindi io sono diventato figlio mentre io ero perso, perché io avevo un destino diverso, dovevo andare a finire all'inferno, questa è la verità. Eppure qualcuno si è preoccupato di me e non ha preso il migliore della lista, ma ha preso me e ha pagato con il suo sangue perché io diventassi figlio. E questo è successo a me ed è successo anche a te. Tu sei figlia, tu sei figlio perché sei stato adottato in Cristo. Amen? Questo principio deve darci una fiducia, una carica di sapere quanto è potente questo principio dell'adozione, di quanto Dio ha pensato di mettere noi, che non eravamo nessuno, nella sua casa, nella sua famiglia, in un percorso glorioso di una vita che sarà diversa da ora in poi. Non è straordinario. Io spero che tu, se non ti senti ancora adottato in Cristo, tu oggi possa fare questa decisione e dire, io voglio diventare figlio. È il momento di diventare figlio. Voglio essere parte di questa famiglia. E Dio ci dà anche una famiglia, che è la Chiesa. Che dono straordinario che Dio ha fatto. E non si poteva fare in altro modo se non col sangue. Il diritto di sangue, io non so chi ha scritto questa legge, forse è stata ispirata, però io una cosa so, che ho un diritto. È un diritto di cittadinanza che non mi può togliere nessuno. Ora siamo forse troppo occupati nella nostra vita terrena, su tanti fronti, a come portare avanti le nostre quotidianità. Però per favore riposiamo in questo principio, dobbiamo abbracciarlo, dobbiamo farlo nostro, perché questo ci mette pace da qui in poi nella nostra eternità. Non possiamo considerarci cristiani perché viviamo semplicemente il nostro servizio, la nostra chiesa, le attività. No, noi siamo chiesa perché siamo tutti stati acquistati da un diritto di sangue. E sapete perché? Io penso che l'adozione sia un percorso di successo per queste cose qua. E quando io penso anche ai nostri bambini, e credo che tutti i genitori si trovano in questa circostanza di dire cosa posso dare a mio figlio, che cosa potrò mai fare in modo che possa andare bene per lui. Allora inizi ovviamente a dargli una buona istruzione, una buona educazione. Potrei dargli anche l'iscrizione al corso di calcetto, al corso di informatica, tutte cose, a un percorso di formazione musicale, bellissimo. La questione è che come genitori noi sbagliamo e sbaglieremo sempre. Non saremo mai genitori perfetti e ce lo ricorderanno, sono sicuro che sarà così. Non siamo genitori perfetti, puoi dargli tutto quello che puoi, vuoi e desideri dare come percorso, ma non sarà mai sufficiente. Allora, sapete perché io penso che i nostri bambini avranno una vita buona e di successo? Perché noi vogliamo solo dare Gesù a questi bambini. Perché Dio ha dato l'unica cosa che aveva ed era Gesù. È l'unica cosa che tu puoi dare ai tuoi figli adottivi, spirituali, naturali, è Gesù. Non puoi dare nessun'altra cosa se non Gesù. E io riposo in questo, perché altrimenti non saprei come andare avanti in questa avventura, perché è un'avventura pazzesca, e non saprei come, cosa può succedere. Non potrei mai riposare bene nell'idea di oggi succede questo, oggi potrà accadere questo, se non riposo nell'idea che l'unico scopo per cui questi bambini fanno parte di questa famiglia è perché io devo dare loro Gesù. Io e mia moglie dobbiamo dare loro Gesù. E questa è l'unica cosa più importante, più bella, più grande, gloriosa, eterna che noi possiamo dare ai nostri figli. Amen. Volete pregare un po' con me? Ci alziamo in piedi. Possiamo chiudere un attimo i nostri occhi. Signore, io so che tu stai parlando ai nostri cuori questa mattina e sai che quello che sta succedendo adesso è qualcosa di spirituale, qualcosa che io non posso controllare, ma che tu sei all'opera. Tu stai parlando, tu stai infondendo nuove certezze, stai creando desideri, stai creando nuove speranze. Signore, io ti prego che possiamo tutti insieme qui oggi riconsiderare la nostra vita rispetto a quello che tu ci hai chiamato. E, Signore, ti prego davvero per ognuno di noi che possa spostare la propria attenzione da se stesso per poter dare qualcosa a qualcuno che forse è stato accanto a noi sempre fino ad adesso e non ce ne siamo accorti. Io ti prego davvero che possiamo vedere le persone che sono accanto a noi come figli, come persone da guidare, persone da portare a Gesù, persone che hanno bisogno di fare un percorso insieme a noi e sentirsi parte di questa famiglia. Signore, ti prego davvero per tutti i figli adottivi, per tutti i figli spirituali, per tutti i figli naturali. Signore, come genitori siamo così incapaci, non riusciamo proprio a pensare come possiamo fare bene, ma quando possiamo solo nell'idea di trasmettere te, sono certo che tutto andrà bene. Tu sei la cosa più preziosa che papà ci ha dato. Tu sei la cosa più preziosa che poteva capitarci nella nostra vita. E noi non possiamo che prendere tutto questo e trasferirlo e darlo, Gesù. Vogliamo dare questo, vogliamo elargire questo, vogliamo essere genitori generosi. Non vogliamo rimanere sterili, non vogliamo rimanere fermi, non vogliamo guardarci intorno e cercare di capire cosa sta succedendo. Signore, mettici in azione. Dacci grazia di abbracciare i sogni che tu ci hai dato per la Chiesa, per la nostra vita, per le nostre famiglie. Signore, tu ci hai dato sogni gloriosi, stadi pieni da riempire, non per giocare a calcio, ma per lodare il tuo nome, Signore. Io ti prego che tutte le generazioni da ora a venire possano abbracciare questo sogno, possano ritrovare le parole che tu hai proclamato, le profezie date, e possono portare avanti ogni sogno che tu hai affidato. Signore, è glorioso sapere che tu sei in controllo e che vuoi cambiare le nostre vite e vuoi darci un destino diverso. Ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen.